Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Diciassette e 9 minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia e i temi di questa giornata economico-finanziaria. Ne partiremo anche dal mercato della casa. Già i nostri GR vi hanno ricordato, il dato di oggi è il dato dell'Istat, in realtà messo assieme dall'ABI, l'Associazione delle Banche Italiane, e dall'Agenzia delle Entrate, ed è il secondo rapporto immobiliare 2013. Insomma, per farla breve, è crollato il mercato del mattone nel 2012. È crollato non solo sui prezzi, attenzione, ma sulle compravendite. 150.000 compravendite in meno rispetto al 2011, quando già si era in rallentamento, e praticamente le case comprate e vendute l'anno scorso sono state a livello più basso dal 1985, quindi 430.000 case. Comprate appena, vale la pena ricordare. Siamo appunto al peggior livello dal 1985. I prezzi comunque nel 2012 in media hanno fatto un meno 2,7%, con un peggioramento soprattutto nell'ultimo trimestre del 2012. Diciamo che tutta la situazione economica, ormai lo stiamo capendo dai dati che escono, è peggiorata brutalmente e bruscamente da settembre 2012. Vale per i consumi, vale per la produzione industriale, vale per fatturati ordinativi, vale anche per il mercato del mattone. Non è un caso, lì si sono scaricati gli effetti di tasse e anche tagli del governo Monti, cioè l'austerità del governo Monti. Comunque, dicevo, meno 2,7% i prezzi, con un meno 4,4% nell'ultimo trimestre del 2012 rispetto all'ultimo trimestre del 2011. E secondo le stime questa riduzione continuerà nei prossimi mesi, tant'è che l'ABI, quindi l'Associazione delle Banche Italiane, stima un calo dei prezzi anche per i primi tre mesi del 2013 dell'1,1%. Faccio notare che possono sembrare cali marginali, ma non lo sono. Il mercato del mattone non si muove come la borsa. Un calo del 4% è un calo pesantissimo, visto che poi parliamo sempre di centinaia di migliaia di euro per ogni immobile, ed è una media, per cui avremo zone, tipicamente semicentro, poi ne parleremo, in cui i prezzi tengono di più, e zone in cui i prezzi sono calati dell'8-9%. Quando si moltiplica l'8-9% per qualche centinaia di migliaia di euro, ecco che si arriva a un calo dei prezzi di qualche decina di migliaia di euro per singola abitazione. Calano i prezzi, ma calano anche gli affitti. Il tutto nel giorno in cui l'ABI, quindi sempre le banche italiane, fa sapere che sono nuovamente calati i prestiti a famiglie e imprese nel mese di aprile, meno 3%. Il ribasso riflette, secondo l'ABI, la debolezza della domanda e l'andamento del PIL. Secondo noi riflette, oltre che la debolezza della domanda e l'andamento del PIL, anche una poca propensione delle banche a prestare soldi, in questo caso soprattutto alle imprese e piccole imprese. Raddoppia il numero, comunque, questa è la giustificazione che danno le banche, di chi è in sofferenza, specialmente le piccole e medie imprese. Secondo l'ABI, infatti, le sofferenze nette hanno toccato quota 64 miliardi, i soggetti principalmente piccole e medie imprese che avevano ricevuto prestiti fino a 2 milioni e mezzo di euro erano in sofferenza, di questi circa 1.100.000 persone, piccole e medie imprese, per un totale di 71 milioni di euro, un valore doppio rispetto a quello di prima della crisi. E quindi sofferenze vuol dire che sono crediti che le banche forse avranno difficoltà a riavere, a esigere. Però insomma il livello è doppio, 71 milioni di euro per pari a 1.100.000 soggetti contro i 29 milioni di euro e 590.000 soggetti del 2008, di prima che scoppiasse questa crisi. E allora è chiaro che tutto si tiene: da un lato sono in difficoltà le imprese, le famiglie chiedono meno prestiti, dall'altro le banche li erogano con meno facilità, per essere buoni, e tutto questo ha una ripercussione anche sul mercato immobiliare. E di questo parleremo in apertura, poi però racconteremo anche altre situazioni, per esempio quella dei lavoratori della SEA di Milano, la società che gestisce gli aeroporti di Linate e Malpensa, Sea Handling si chiama la controllata, e la loro protesta di oggi. Parleremo anche però di uno scandalo che riguarda il giornalismo economico-finanziario che si sta allargando a Wall Street e in America, perché insomma, che coinvolge l'agenzia di stampa economico-finanziaria Bloomberg, quella creata dal sindaco attuale di New York Michael Bloomberg. Il caso è esploso pochi giorni fa perché alcune banche, una in particolar modo, la banca d'affari americana Goldman Sachs, aveva denunciato il fatto che alcuni giornalisti dell'agenzia di stampa Bloomberg avrebbero attinto a informazioni riservate dalla banca per scrivere articoli e quindi avevano accesso alla corrispondenza via mail anche della banca. Praticamente cosa è successo? Che un giornalista della Bloomberg aveva chiesto a un dirigente della banca se un partner della società se n'era andato di recente, perché aveva notato che ultimamente non aveva fatto login nel suo computer, non era entrato nel suo computer. Ora, come fa un giornalista a sapere che un dirigente di una banca, un partner, non accede al suo computer se non ha accesso direttamente al suo computer? E lo scandalo si allarga anche perché oggi anche la banca centrale giapponese ha chiesto chiarimenti all'agenzia di stampa Bloomberg sulla sicurezza dell'uso dei terminali all'interno della banca centrale giapponese. E le ipotesi sono di violazioni finite ieri nel mirino anche della Federal Reserve americana, che ha assicurato di voler fare chiarezza. E Matthew Winkler, a capo di Bloomberg News, ha dovuto chiedere scusa per l'imperdonabile caso. E tutte le banche centrali, anche la Banca Centrale Europea, quella del Brasile, la Bank of Korea, l'Hong Kong Monetary Authority, hanno chiesto di avere maggiori informazioni sull'accaduto, cioè vogliono capire quanti giornalisti e soprattutto di quali banche e su quali banche avessero accesso appunto a corrispondenza riservata. E questo è un altro tema di cui tratteremo. Poi come sempre resta la borsa oggi guadagna lo 0,77% a Milano, lo 0,40% a Parigi, lo 0,60% a Francoforte, lo 0,70% a Londra, mezzo punto percentuale in America. Per quello che riguarda l'Italia, male fondiere assai, anche di questo ci occuperemo, meno 5%, Mediaset meno 2,80, Atlantia meno 1,30, come Campari, Saipem meno 1,1 e Banco Popolare meno 1,1%. Chi va bene invece? Il lusso, Salvatore Ferragamo più 3,80%, Azimut più 2,70, Fiat più 2,40, UbiBanca più 2,20 come Intesa San Paolo ed Exor, Eni più 2%, Autogrill più 1,70, Buzzi Unicem più 1,40 come Luxottica, Monte dei Paschi più 1,1, Popolare di Milano più 1, Generali più 1 anch'essa. Per quello che riguarda il rapporto di cambio euro-dollaro siamo a 1,2984, ultima cifra, quella numero per i vostri sms 349-238-6666 e poi la pagina di Focus Economia su Facebook. Allora, l'oro sale in Asia a $1,444, il petrolio è leggermente in calo a $94,75. Restando sul fronte internazionale, ci occupiamo del Vaticano, perché avete letto come Papa Francesco stia smontando interi pezzi, diciamo, delle gerarchie vaticane, a partire anche dallo IOR, la Banca Vaticana, numerose volte, diciamo, finita in inchieste non esattamente edificanti, mettiamola così. Allora, entro fine anno lo IOR avrà un suo sito internet su cui verrà pubblicato, tra gli altri documenti, anche il bilancio, che così sarà a tutti gli effetti pubblico, perché non lo era ancora. E lo ha annunciato il presidente dell'Istituto Opere di Religione, Ernst von Freiberg, incontrando appunto il personale. Tra le novità vi sarà anche una società internazionale che certificherà appunto il bilancio. Una buona notizia arriva dalla Visa, da Visa quella delle carte di credito, che per chiudere un'inchiesta dell'antitrust europeo ha proposto alla Commissione Europea di tagliare del 40-60% le commissioni interbancarie richieste in 10 paesi, tra cui l'Italia, portandole allo 0,3% della transazione, quello che viene caricato sulla transazione. Attualmente è tra lo 0,5 e lo 0,7%. Il vicepresidente Joachim Almunia della Commissione Europea ha definito la proposta un fatto molto positivo che ridurrà i costi per i consumatori. Commerzbank, perché noi abbiamo salvato Monte dei Paschi con 4 miliardi, ma la Germania, la virtuosa Germania, nel 2009, forse pochi se lo ricordano, ha salvato una banca che era praticamente in ginocchio, che è Commerzbank, che non è una banchetta da ridere. Allora, Commerzbank oggi ha annunciato un aumento di capitale da 2 miliardi e mezzo per ripagare allo Stato tedesco il prestito di salvataggio concesso nel 2009. Nel 2008 infatti le sue azioni, anzi praticamente le sue azioni dal 2008 sono crollate del 94%, il 2008 è l'anno in cui acquistò la rivale Dresdner Bank. Lo Stato, una volta che avrà avuto lo Stato tedesco i 2 miliardi e mezzo da Commerzbank, taglierà la sua quota di partecipazione nell'istituto dal 25 al 20%. No, lo dico perché giustissimo parlare di Cipro, della Grecia, di quant'altro, però non dimentichiamoci che una parziale nazionalizzazione di una banca in Germania è avvenuta nel 2009 senza che nessuno gridasse allo scandalo, senza che si parlasse di paesi periferici, paesi limitrofi, senza che si... cioè, la Germania ha salvato Commerzbank, nessuno ha fatto copertine, articoli, e anche un po' sbeffeggiato i tedeschi per questo. Era una banca che se no chiudeva. E tra l'altro si è comprata Dresdner Bank, che con tutto rispetto per Dresdner Bank è coinvolta pienamente negli scandali del Monte dei Paschi, perché era uno dei centri, diciamo, di organizzazione di questi simpatici strumenti derivati in cui guadagnavano tutti tranne che gli azionisti del Monte dei Paschi. Lo dico perché invece oggi non so che tipo di risposta dare al mitico ministro delle finanze tedesco Wolfgang Schäuble, uno che, non lo so, sarà anche potente, sarà anche un falco, a me delle volte sembra Forrest Gump, lo dico con massimo rispetto. Non solo due settimane fa se ne è uscito con quella frase, ma non è vero che l'Italia è un paese in difficoltà, in Italia si vive benissimo, io ci vengo in vacanza, che chiaramente non è come dire che se io vado in vacanza, non lo so, in qualunque posto al mondo, solo perché ci vado in vacanza, è un bel posto e non si sta male. Mi sembra un percorso un po' pericoloso. Venga Schäuble a vedere la disoccupazione, le periferie italiane, i negozi che chiudono, gli artigiani. Adesso ne raccontiamo anche purtroppo un'altra di vicenda. Però Schäuble sa tutto. Ma la cosa che mi fa impazzire è che oggi lui c'era al vertice Ecofin questa mattina, ieri il vertice dell'Eurogruppo. Lui è arrivato nel palazzo dove si riuniscono, dove si stavano per riunire i responsabili economici dell'area euro, e ha iniziato a parlare con la stampa in tedesco. Quando finisce, un giornalista gli pone una domanda in inglese e lui dice, sentiamo cosa dice prima e poi vi faccio la traduzione. Minister, about tax evasion, how can you fight it, please? Ich habe es gerade in Deutsch erklärt und ich gebe gerade deutschen Medien ein paar Auskünfte. If you don't understand German, it's a pity for you, but I'm in the way to answer questions of German medias. No, no, me la fate risentire magari l'ultimo pezzetto, perché c'è un giornalista straniero, non riesco a capire dell'accento, non mi sembra francese, però ha un accento forse del centro Europa, che gli fa una domanda in inglese e lui risponde con un tono molto garbato, molto europeo, molto da chi non ritiene Deutschland über alles, ma chi ritiene di stare in una casa in cui siamo tutti cittadini uguali, in cui siamo tutti fratelli. Fatemi sentire un attimo. Minister, about tax evasion, how can you fight it, please? Ich habe es gerade in Deutsch erklärt und ich gebe gerade deutschen Medien ein paar Auskünfte. If you don't understand German, it's a pity for you, but I'm in the way to answer questions of German medias. Cioè, se non capisce il tedesco è un peccato per lei. If you don't understand German, it's a pity for you. Io sono qui solo per rispondere ai media tedeschi. Beh, un bel applauso a Schäuble, perché voglio dire, questo è l'atteggiamento che ci piace nei confronti dell'Europa. Proprio questa comprensione, ma io parlo solo con i giornalisti tedeschi, se lei non capisce tedesco sono tutti cavoli suoi. Allora, dammi un applauso a questo Schäuble. Caro Schäuble, io le rispondo come risponde un ascoltatore. Stia attento, perché fra un po', invece che rispondere in tedesco, risponderà in cinese. Allora impari anche il cinese e poi vediamo la volta che un giornalista tedesco fa una domanda a un ministro cinese e questo gli risponde: io parlo solo con quelli che sanno il cinese. Andiamo avanti così? Ma vai. E poi oggi è bellissimo, perché nel frattempo il suo collega, il ministro degli interni Hans-Peter Friedrich, dice che la Germania deve agevolare l'immigrazione dei paesi del sud dell'area euro. Va bene, occorre che sfrutti pienamente il proprio potenziale, una maggiore formazione della forza del lavoro locale. Ecco, facciamo in modo di non fare dare queste risposte così spocchiose. No, già non è che proprio ispiriate tutta sta simpatia. Se ci mettiamo anche le risposte, se non capisce tedesco è un peccato per lei. Io rispondo solo ai giornalisti tedeschi, boh, no? E sarà un caso, ma i francesi, per esempio, sono sempre più euroscettici. Da un sondaggio realizzato sul quotidiano francese Le Figaro emerge che appena il 41% dei francesi ha ormai un'opinione positiva sull'Europa, con un calo del 20% nell'ultimo anno. Il livello alto ormai è solo in Germania, al 60%, siamo al 43% in Gran Bretagna. Sapete perché i francesi sono così critici, hanno perso 20 punti percentuali, quelli a favore dell'euro e dell'Europa? Perché dicono che l'integrazione economica avvantaggia la Germania a svantaggio degli altri paesi. Ma va? Adesso gliela traduciamo in tedesco a Schäuble, gliela mandiamo e vediamo se risponde a questa domanda. L'intervento del ministro Saccomanni ieri, che ha rassicurato il presidente dell'Eurogruppo Heron Dijsselbloem, ha detto: siamo rassicurati da Saccomanni sulle riforme, bisogna mantenere il ritmo del consolidamento fiscale, che fuori dal linguaggio tecnico vuol dire della riduzione dei conti pubblici, e quindi deficit e debito. Io ha ragione Quadro Curzio oggi, mi sembra, sul Corriere della Sera, su Sole 24 Ore, scusatemi, che quando scrive: beh, insomma, non si capisce perché l'Italia non abbia avuto il trattamento che hanno avuto Francia e Spagna sulla possibilità di avere un anno in più per il deficit. In realtà poi qui si aprirà una trattativa diversa. Da quello che ho capito io, il governo punta a dire: bene, rispettiamo gli impegni sul deficit senza chiedere, come Francia e Spagna, un prolungamento dei tempi. A questo punto però, visto che i compiti li abbiamo fatti con i tempi dovuti, vediamo di avere anche politiche, per esempio sulla defiscalizzazione del lavoro giovanile, delle assunzioni dei giovani, più larghe e più lasche, in modo che non tutto il deficit venga trattato nello stesso modo. Io dico sempre: c'è quello buono e quello cattivo. E Saccomanni infatti ieri ha garantito, l'ha fatto ieri in serata lasciando l'Eurogruppo, che le misure, e quindi scadenza dell'IMU, IVA, reperimento dei soldi per la cassa integrazione in deroga, non altereranno i saldi del 2013. Vogliamo rimanere all'interno degli impegni assunti a livello comunitario, che le misure che stiamo prendendo adesso, che sono misure appunto ben note e che affrontano problemi urgenti, saranno prese in maniera tale da non alterare i saldi della finanza pubblica per il 2013. Loro hanno chiesto indicazioni, diciamo, precise, che sono appunto contenute nelle risoluzioni che il Parlamento ha approvato e nel testo del decreto che sarà presentato. In bianco il maschio forte, i ministri puliti, i buffoni di corte, ladri di polli, super pensioni, tre che più, ladri di stato e stupratori, il grasso ventre dei commentatori, diete politicizzate, evasori legalizzati, tre che più, blu, sangue blu, cieli blu, amore blu, rock and blu. Allora. C'è l'SMS di un signore che immagino essere tedesco, vista la firma, che dice: intanto voi italiani sapete solo lamentarvi, l'80% dei giovani non parla nemmeno una seconda lingua, un popolo che non vuole alzare la testa e non tira fuori l'orgoglio, che altra immagine viene data dell'Italia, il magna magna e i piagnoni. Allora, sui difetti degli italiani, guardi, qua sfonda una porta aperta, e la rubrica che sta per iniziare, come ogni giorno, racconterà gli sprechi. Sul fatto che i giovani non parlino le lingue posso darle in parte ragione, e chi non impara le lingue sono fatti suoi e resta fuori dal mercato del lavoro, però non vuole alzare la testa, non, magna magna e piagnoni. Ma guardi che la manovra che abbiamo avuto nel 2012 e quella che ci aspetta anche nel 2013, il paese ha tirato la cinghia più che magna magna, qua si magna sempre di meno, tranne che alcune categorie che adesso racconto, per cui attenzione anche con i luoghi comuni. Cioè, la Germania non ha avuto nessuna manovra finanziaria come abbiamo avuto nel 2012, le ha avute prima, lo sappiamo, lo abbiamo raccontato. Non mi sembra che l'Italia si sia messa nel 2012 a piangere basta, a mangiare basta, la maggior parte. Poi invece ci sono delle eccezioni, e lo dico nel giorno in cui, visto che parlavamo di mercato immobiliare, poi leggerò una notizia che mi fa rabbrividire, ed è quella di chi si è dato fuoco, Giovanni Gualascio, 64 anni, ha dato fuoco a se stesso, alla moglie, e, però anche due agenti di polizia sono stati ustionati per salvare la sua casa. Che cosa era successo? Che gli era stata pignorata per un debito di 10.000 euro. Però io spero che non sia vero che per un debito di 10.000 euro si arrivi a pignorare una casa per 10.000 euro, ok? Detto questo, ma poi ci arriviamo, il paese ha tirato la cinghia, c'è qualcuno che invece l'ha fatto molto poco. Allora, da dove partiamo? Dalla regione Lazio. Sapete quanto recupera la regione Lazio avendo bloccato i fondi di chi guidava l'ufficio di presidenza ai tempi di Renata Polverino presidente? Mi riferisco a Mario Abruzzese. 4 milioni di euro. Eh sì, perché hanno bloccato un insieme di finanziamenti. Ah, io qua ho bisogno di una maiella, per favore, una maiella, quello che volete, i tanghi vari, che questa è. Eccola lì. Hanno bloccato le seguenti spese. Il paese è preoccupatissimo, io non so se riuscirò a dormire questa notte. Perché erano già state decise le spese per 30.000 euro al comune di Acquafondata Frosinone per il Festival della Zampogna. 10.000 euro all'associazione Pallacanestro Cassino, 20.000 euro per la manifestazione Ciociaria in Famiglia. E beh, oh. Com'era quella rubrica di cuore, mai più senza. 40.000 euro alla manifestazione Naturalmente Cavalcando. Cavalcando cosa? Vabbè. La Regione Lazio ha sospeso i pagamenti a comuni e associazioni per attività tra 2011 e 2012 che valgono, ripeto, 4 milioni di euro, non è poco, uno ci può istituire anche un fondo per la solidarietà delle famiglie. Ma c'era un po' di tutto, 20.000 euro per il 34esimo rally di Pico, in Ciociaria. Boh. Ma il rally di Pico non devono fare a Mirandola, casomai, boh, non lo so. Stessa cifra al comune di Santo Padre, provincia di Frosinone, per la seconda edizione del Rally delle Ronde, in cui uno fa un rally, mette anche un biglietto per controllare i negozi. Ma che è il Rally delle Ronde? 30.000 euro alla provincia di Frosinone per l'anniversario dell'Unità d'Italia. Ancora. 20.000 euro a un'associazione della stessa zona per una manifestazione. Allora, 20.000 euro a un'associazione della stessa zona in Frosinone per una manifestazione che ha questo titolo: Lazio, due punti, appuntamento con un grande evento. Ma quale? Boh, chi lo sa. E restano tutti quanti sospesi. Gente che va dallo psicologo a Frosinone. Lazio, un appuntamento con un grande evento, non si sa quale. E poi 10.000 euro a Cassino per l'happening dei giovani. Allora, l'happening dei giovani che è? Io conosco l'happy hour dei giovani, ma l'happening dei giovani con 10.000 euro cos'è l'happening dei giovani? Meno male che la nuova giunta li ha bloccati, ma adesso vorrei invece non una maiella, ma vorrei una cosa triste, perché qui sto per raccontare una vicenda veramente dolorosa. È una vicenda dolorosissima. Eccoci. e mi riferisco al consigliere del PDL della regione Piemonte, ma soprattutto al consigliere in provincia Renzo Rabellino. Perché? Perché lui, assieme a altri quattro consiglieri del Piemonte, vive in un comune di montagna a Sambuco, in provincia di Cuneo. Risulta residente lì assieme ad altri quattro consiglieri circoscrizionali torinesi, in un'abitazione così malandata che è priva di luce elettrica, di fornitura di gas. Praticamente vive su un pagliericcio con un bue e un asinello che lo riscaldano. E sapete perché vive lì? Perché questo gli permette di avere 1500 euro di rimborso chilometrico mensile, visto che il rimborso si calcola sulla distanza. Ma noi non vogliamo, ma immaginate la difficoltà di questi consiglieri che dormono col bue e l'asinello, si svegliano, non hanno di che lavarsi con l'acqua calda, si devono fare tutta questa strada da Sambuco fino a Torino. Almeno gli danno 1500 euro di rimborso. Vuoi mai che abitino a Torino magari durante la settimana? No, tutti i giorni Torino-Sambuco, Sambuco-Torino, Sambuco-Torino, Torino-Sambuco. Uno poi si sbaglia. Drammatica, così come il consigliere del PDL Carla Spagnuolo, che risulta residente a Sanremo e deve farsi Sanremo-Torino, Torino-Sanremo ogni volta che c'è una giunta, anche lì 1500 euro di rimborso. E insomma, meno tristezza mi fanno invece altre contestazioni. Io vorrei veramente che si aprisse anche un numero verde per il consigliere Renzo Rabellino e i suoi altri quattro colleghi. Ma vi rendete conto, senza luce, senza gas, in mezzo alla montagna, d'inverno, e noi poi parliamo di costi della politica. Ma ragazzi, provateci voi a vivere così. E insomma, invece meno tenerezza mi fa l'ex assessore regionale leghista Massimo Giordano. Oggi proprio la puntata poteva chiamarsi Una faccia, una razza, nord, sud, cambia niente, perché deve rispondere alle contestazioni, così come deve rispondere alle contestazioni anche il appunto il consigliere Massimo Giordano. 7.000 euro di spese, metteva in nota spese anche le multe, anche le multe. E poi Girolamo La Rocca e anche il capogruppo del PDL Luca Pedrale, che si avvale della facoltà di non rispondere. C'era un secondo consigliere leghista, anche Federico Gregorio, che è arrivato con l'assegno circolare di 21.689 euro, pari all'esatto ammontare di rimborsi di cui sono accusato. Lo consiglierò al mio capogruppo, è denaro tutto tratto dal mio conto. Se le giustificazioni che fornirò non saranno ritenute valide, la somma è a disposizione della regione. Vabbè, almeno questo. Anche perché c'erano spese un po' strane. Gli acquisti in serie di abbigliamenti di lusso da Olympic, di più consiglieri del PDL. E ripeto, poi tutta la parte delle residenze nei posti più distanti da Torino che uno possa trovare. Ma non c'è solo Torino, perché anche a Milano, la regione Lombardia, la vecchia giunta regionale, allora, poco più di 1 milione di euro spesi in un anno tra ristoranti, alberghi, viaggi, tablet e PC. Ora rischiano di doverli restituire perché la Corte dei Conti ha messo in fila ogni scontrino ricevuta. Allora, i rimborsi non dovuti secondo la Corte dei Conti, la classifica, mamma mia, già le 37, devo andare. Allora, mezzo milione di euro di rimborsi non dovuti alla Lega Nord, 297.000 euro di rimborsi non dovuti al PDL, 48.000 euro all'UDC, 46.000 euro al PD e 12.000 all'Italia dei Valori. Il totale per le spese dei sette gruppi è di 3.700.000 euro, secondo la Corte dei Conti 900.000 almeno non sono giustificabili. Alcune di queste, tant'è che ha bloccato i rimborsi dell'anno in corso. Per il momento è sospesa la distribuzione dei 220.000 euro che avrebbero coperto le spese dei gruppi per il trimestre aprile-giugno. Che cosa si facevano rimborsare i consiglieri milanesi della regione Lombardia? Pranzi e cene in ristoranti, dall'ormai famoso ristorante Sushi. Nicole Minetti lì ha una contestazione da 12.000 euro, ma quanto sushi si è mangiata la Minetti a spese nostre? Al ristorante Giannino, altro ristorante non economico a Milano. Pernottamenti in alberghi in tutta la Lombardia, computer portatili, gadget tecnologici, taxi, libri, riviste, senza alcuna attinenza con i motivi di studio e lavoro dell'attività di consigliere. Non mi fate la battuta sulla Minetti, tanto già l'abbiamo raccontato che comprò un libro anche a spese dei contribuenti, il libro Mignottocrazia. Secondo me era argomento anche, diciamo, di documentazione. Bye. 17:46 minuti, Barisoni la smetti di fare politica, Barisoni dai le borse, basta populismo. Mamma mia, quanta gente che si arrabbia se parliamo degli sprechi dei politici. Ma perché? Abbiamo anche fatto una colletta per quelli che vivono a Sambuco col bue, l'asinello e la paglia. Un po' di solidarietà, no? Perché vi arrabbiate così tanto? La borsa più 0,84% Milano, più 0,53% Parigi, più 0,70% Francoforte, più 0,70% anche Londra, più 0,56% in questo momento l'America, con la vicenda Fondiaria Sai. Ah, perché c'è un'intervista bellissima oggi su Fondiaria Sai, perché quando volano gli stracci, volano gli stracci. Allora, Fondiaria Sai ha perso il 5%, più volte abbiamo raccontato, insomma, delle inchieste varie, delle remunerazioni che la famiglia di Graesti e anche dell'ex ministro Legato si davano con un gruppo che perdeva sempre di più, loro si davano sempre più bonus, la faccio molto veloce, con spese inutili, con Li Graesti che si faceva pagare la consulenza per il gruppo di cui lui era proprietario, gruppo a cui ha fatto acquisire tutte le cose che perdeva a partire dagli Ata Hotels, cioè un disastro. Ma in tutto questo Mediobanca non... perché le banche sono strane, no? Hanno difficoltà a dare delle volte 10.000 euro o 100.000 euro al piccolo imprenditore così. Però se ti chiami Li Graesti, se ti chiami Don Verzè, lì i soldi arrivano subito. Forse è giusto che devi avere tanti debiti per essere trattato bene. Insomma, oggi l'ex presidente indagata Giulia Li Graesti accusa Mediobanca e Unicredit di aver favorito l'operazione Unipol Fonsai per salvare Mediobanca, nel senso che se no Mediobanca come rientrava da quel miliardo che aveva prestato ai Li Graesti? E dunque i crediti che i due gruppi bancari vantavano appunto nei confronti del gruppo bolognese. Dice la Li Graesti, Mediobanca e Unicredit erano perfettamente a conoscenza della criticità, delle criticità patrimoniali di Unipol, comprese alcune operazioni con i derivati su cui la Consob sta verificando la correttezza contabile. Secondo la Li Graesti, quindi, l'operazione Unipol Fondiaria Sai non risponde a nessuna logica industriale ed è con grande probabilità destinata a naufragare, serve solo a fare in modo che Mediobanca e Unicredit possano riavere i soldi che hanno prestato. Devo dire una cosa alla dottoressa Li Graesti, un po' il sospetto c'era venuto, ho visto che c'era un'altra offerta sul tavolo. Vabbè, però bello vedere, insomma, questo, quando gli stracci volano, volano di brutto, lì non ci sono salotti buoni, salotti cattivi, lì sono tutte mercerie. Ciao Condina, Radio Core sulle 24 ore, buonasera. Buonasera a voi. Siccome sto sballando ogni tempo oggi di traffico, meteo, ed è colpa mia, l'unica vera colpa, per cui chiedo venia agli ascoltatori e ai colleghi, fammi mandare il traffico e poi commentiamo le borse che si sono riprese nel pomeriggio con un buon avvio di Wall Street. Ferragamo che va bene grazie anche alla trimestrale, e poi vorrei anche parlare di Fondiaria Sai. 349-238-6666 per i vostri sms e la pagina di Focus Economia su Facebook. Partiamo da Ferragamo più 3,80% la trimestrale, ma teniamo il fronte anche opposto, Fondiaria Sai, visto che ho appena letto l'intervista della Li Graesti, meno 5% oggi. Ferragamo è la migliore del FTSE MIB, più 3,8% come dicevi tu, grazie a un EBITDA che è cresciuto del 26% a 48 milioni, un utile netto che è addirittura più che raddoppiato rispetto al primo trimestre dell'anno scorso, è arrivato quasi a 25 milioni di euro. E il lusso va bene, molti si chiedono, sì, ma quali settori? Il lusso continua ad andare benissimo, Ferragamo raddoppia l'utile, ma non perché qua ci siamo messi a comprare cravatte e scarpe, sono cinesi, sono indiani, sono brasiliani, sono indonesiani, sono turchi, lì si fanno i soldi. Chiusa la parentesi, vai. Ha praticamente triplicato il valore rispetto all'IPO perché ha agganciato quota 24 euro in borsa, che tanto per cambiare è il massimo storico del titolo. Per quanto riguarda invece Fondiaria Sai, un passivo del 5%, a seguito poi di quelle appunto dichiarazioni rilasciate da Giulia Li Graesti e la DN Kronos che richiamavi tu, chiaramente queste sono dichiarazioni che non possono che deprimere il titolo, deprimere la società, certo, sia Fondiaria Sai sia Unipol, che ha lasciato sul terreno il 3%, ricordiamo che tutto l'impianto della fusione fra le due compagnie assicurative, che poi di fatto è un salvataggio di Unipol per Fondiaria Sai, è ancora sotto la lente dell'IVA, se si aspetta. Sì, in realtà la Li Graesti dice che è Fondiaria Sai che salva Unipol, se ho ben capito la sua ricostruzione, cioè che si fa. Però insomma, alla fine c'è l'operazione fatta per avvantaggiare Unicredit e Mediobanca. Questo è il succo, il titolo dell'operazione. Mediaset meno 2,90. Mediaset, diciamo che fondamentalmente tutti gli operatori erano in attesa dei dati che sono stati pubblicati poco fa, subito dopo la chiusura di borsa, ma come spesso accade in queste situazioni il titolo guadagna molto prima appunto della pubblicazione dei dati. Ricordiamo che Mediaset, anche a seguito del ritorno in campo di Silvio Berlusconi, negli ultimi mesi aveva praticamente raddoppiato il proprio valore in borsa e poi nel giorno dei conti qualcuno decide insomma di vendere. Ancora, chi è andato bene oggi? Intesa San Paolo, c'era la trimestrale più 1,90% il titolo? Sì, Intesa San Paolo è andato oltre le attese. La trimestrale, il titolo ha poi insomma infatti ha accelerato nel primo pomeriggio appunto per chiudere in positivo. Ricordiamo che nel quarto trimestre 2012 c'era stata una perdita per quanto riguarda Intesa di 83 milioni, invece il primo trimestre di quest'anno ha fatto segnare un utile netto di 306 milioni. In più la banca nella presentazione dei dati ha sottolineato che per il 2013 si attende un dividendo per azione almeno pari a quello distribuito appunto per l'esercizio 2012, quindi anche questa aspettativa ha galvanizzato gli operatori. Bene anche UbiBanca, più 1,90% nel giorno in cui ha diffuso i conti per del primo trimestre. L'utile è sceso a 26,5 milioni, meno 75%, però in miglioramento rispetto alla perdita da 140 milioni del quarto trimestre. Aumenta anche l'esposizione verso i bot e BTP italiani da 18 a 19 miliardi e mezzo. Buona la reazione al mercato comunque. Come ricordavi giustamente tu, rispetto all'anno scorso l'utile è sceso molto, ma poi quello che conta è stato che rispetto al quarto trimestre, quando poi vediamo anche nel caso di Intesa San Paolo, le banche avevano dovuto effettuare alcune correzioni, c'è stato un ritorno all'utile e infatti UbiBanca ha segnato più 1,9%. Ancora Fiat, oggi in recupero tutto il settore auto europeo, Fiat è il terzo miglior titolo, più 2,40%. Assolutamente, ne ha beneficiato anche la controllante Xor, che ha guadagnato il 2,3%, sale tutto il comparto auto in Europa, in scia a Renault, che ha sottolineato come la controllata Nissan nel trimestre chiuso il 31 marzo abbia registrato un risultato positivo per 433 milioni di euro, quindi insomma indicazioni positive sul fronte del business automobilistico in Europa, e anche Fiat ne è riuscita a beneficiare oggi. E poi cito anche Campari, secondo giorno di calo dopo la trimestrale meno 1,5%, migliori peggiori, Ross più 11,1%, Acotel più 8,5%, Metacrimon più 6%, Renault più 5,66%, fronte opposto Compagnia della Ruota meno 7%, Nokia meno 5,60%, Eurotech meno 5,40%, Fondiere 6 appunto meno 5%. Allora, adesso parleremo, grazie intanto a Ciao Condi nella Radio Corriere sulle 24 ore, dopo il GR ci occupiamo del mercato della casa, dello scandalo americano, e non voglio neanche rispondere agli insulti. Sì, ok Fabio, adesso mi dimetto, mi dà il tempo di fare la diretta e poi mi dimetto? Sto scrivendo la lettera, adesso mi dimetto. Ma perché vi arrabbiate così tanto? Se è economia, anche se parliamo di sprechi e dei soldi nostri. E 10 minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per questa seconda parte di Focus Economia. E prima di arrivare a questo scandalo molto molto delicato, perché coinvolge l'attuale sindaco di New York Michael Bloomberg, la sua creatura, l'agenzia di informazioni economico-finanziarie alla Bloomberg, restiamo ancora per un attimo sull'Italia, perché oggi ci sono due notizie che sostanzialmente danno e rientrano nello stesso scenario di carattere congiunturale. Da un lato l'inflazione, con buona pace dei tedeschi, è ai minimi, non avevamo dubbi visto il crollo dei consumi, però insomma l'Istat oggi lo fotografa in maniera molto netta, e su questo abbiamo un'inflazione che ad aprile è crollata all'1,1% contro l'1,6% di marzo. Addirittura su base mensile, quindi marzo su aprile non c'è stato aumento dei prezzi al consumo, il rallentamento dovuto soprattutto alla frenata registrata per i beni energetici, ma il tasso di inflazione è il più basso dal dicembre del 2009, 2009 fu l'anno peggiore da quando è iniziata questa crisi, che poi ormai crisi non è. Anche i prezzi sul carro della spesa ad aprile sono ai minimi dal 2009, l'aumento dei prezzi è più 1,5%, l'aumento dei prezzi in un anno, aprile 2013 su aprile 2012, per quello che riguarda i beni di maggior consumo, quello che si chiama appunto il carrello della spesa. Calano i prestiti delle banche, continuano a calare i prestiti delle banche, meno 3,1% i prestiti a famiglie e imprese, e sarà un caso, si fa per dire, ma l'ABI, la stessa banca italiana, segnalano, oltre a un raddoppio delle sofferenze, anche un vero e proprio crollo del mercato immobiliare nella casa del 2012, 150.000 compravendite in meno, che vuol dire che le case acquistate e vendute sono state nel 2012 430.000, ossia il livello più basso dal 1985. Mario Breglia, presidente di Scenari Immobiliari, buonasera. Buonasera, buonasera a lei e a tutti gli ascoltatori. Ecco Breglia, io ormai non so più cosa dire sulla casa, un po' come il prezzo della benzina delle volte, però mi faccia capire una cosa: quando noi vediamo che i prezzi hanno fatto meno 2,7% nel 2012, però con un picco più forte nell'ultimo trimestre, meno 4,4%, e questo è il secondo calo più forte dal 1980, cosa dobbiamo capire? Perché qui la media dei polli di Trilussa è dietro l'angolo, perché meno 4,4, poi cosa vuol dire per le varie aree geografiche, per le varie aree urbane, mi scusi? Beh, diciamo che significa zero o addirittura leggera crescita nelle zone migliori e in cali intorno al 10% nelle zone periferiche. Sono cali che si sommano a quelli degli anni precedenti, perché noi vediamo solo un anno. È vero. Mentre invece, diciamo, da che c'è questa crisi, diciamo, negli ultimi 5 anni il calo è stato di circa il 20%. In termini monetari, il 20% in questi reali, però anche qui molto differenziato, perché poi in realtà nelle zone migliori i cali sono stati di pochi punti percentuali, nei piccoli centri per le case nuove o per le case particolarmente degradate i cali sono arrivati fino al 30-35%. Ecco, ci faccia capire. Però c'è un altro dato che io volevo mettere in evidenza, visto che lei ha accennato all'ABI, è che il meno 25% delle compravendite va soprattutto messo in relazione al meno 50% dei mutui erogati lo scorso anno. Cioè, il mercato immobiliare soffre non tanto perché i prezzi, diciamo, in un anno sono scesi poco, ma abbastanza nel corso degli ultimi anni, soprattutto perché è strangolato dall'assenza di mutui. Questo è la grande, cioè, senza un mutuo, il grande problema del mercato. Senza un mutuo è difficile comprare casa, spesso, poi c'è chi lo può fare anche senza mutuo, ma insomma. E infatti l'ABI segnala, soprattutto è scesa anche la percentuale sull'erogato, perché nei quindi primi anni del meno piccolo mutui e per meno ammontare, diciamo. Esatto, oggi siamo intorno al 30%. Quindi se del totale a disposizione. Cioè, mi scusi perché l'ho persa, adesso si copre il 30% in media del valore dell'immobile contro? Contro il 70-80% dei primi anni del secolo. Di secolo questo, chiaramente. Senta, ma secondo lei, perché l'ABI dice, sono le famiglie che in difficoltà chiedono sempre meno mutui, le imprese che sono in difficoltà chiedono sempre meno prestiti, ma è così dal suo punto di vista, visto che appunto lei dirige l'osservatorio immobiliare? Sicuramente qualcuno non si avvicina perché non ha neanche i soldi in contanti, ma la maggior parte, sia da parte delle famiglie che delle imprese, è, diciamo, sostanzialmente rigettato dalle banche. Ci sono molte situazioni in cui addirittura le famiglie hanno sottoscritto degli accordi, dei compromessi per comprare casa, fissano col notaio e dal notaio non si presenta il funzionario della banca per il mutuo. È diventata una corsa a ostacoli. Purtroppo nel momento in cui i tassi di interesse sono ai minimi storici, sì, questo è incredibile, più dell'1%, Però non ci sono, non ci sono risorse per finanziamenti a lungo termine. Sì, questo è abbastanza incredibile, perché abbiamo i tassi ai minimi storici, l'ultimo taglio l'ha fatto la Banca Centrale Europea, la BCE che ha prestato 1.400 miliardi, di cui 270 alle banche italiane. La prima tranche serviva per sistemare i conti, ricomprarsi le obbligazioni, la seconda tranche si sperava arrivasse anche a noi comuni mortali, in piccoli imprenditori e famiglie, nulla di tutto questo si è visto. Io non so, però se fossi il governo, un tavolo anche con le banche e un po' di moral suasion la farei, perché da quello che ci risulta Mario Draghi sta cercando a livello di Banca Centrale Europea di trovare un modo per scavalcare anche le banche, se si riesce, quindi arrivare a dare direttamente i soldi a famiglie e consumatori. Però insomma, se tu i soldi li becchi dalla BCE, te li tieni per sistemare i margini, comprare bot, fare altri investimenti e non li presti, insomma il ruolo di banca diventa più quello di una SIM che una banca vera e propria. Comunque, mi può concludere Breglia per favore sulle tipologie, perché ce lo chiedono molti ascoltatori al 349-238-6666, le tipologie più a rischio? Lei dice insomma un palazzo o area immobile di pregio in centro non ha conosciuto crisi, mentre sono gli immobili nelle zone periferiche, gli immobili nuovi soprattutto, perché c'è stata una grossa edificazione soprattutto in aree lontane dai centri urbani, quindi spesso edificazioni anche con progetti che difficilmente avrebbero avuto successo, e quindi per vendere i costruttori abbassano i prezzi, ma non sempre c'è domanda, perché un conto è avere una casa non in centro ma in una zona ben collegata con metropolitane, con ferrovie, e un'altra invece che è lontana da tutto. Breglia, ma se io le dicessi che, visto che la Banca d'Italia ha fatto notare come l'inflazione in questi anni abbia eroso soprattutto il potere d'acquisto delle fasce più deboli, se io le dicessi che in questo modo piove sul bagnato, cioè che già chi ha poco patrimonio e vive in una zona semiperiferica si vede anche deprezzare il valore, mentre chi già ha un bel patrimonio perché ha una casa di pregio in un'area centrale non viene toccato dalla crisi del mattone? Beh sì, sicuramente c'è anche questo, ma infatti per questo servono i governi di solito a compensare le persone e le aree più deboli, è quello che hanno fatto i governi inglesi, perfino il governo conservatore inglese ha approvato una manovra di aiuto alle famiglie che hanno bisogno di case, l'ha fatto il governo Sarkozy, ha fatto il governo spagnolo, cioè, il nostro è l'unico paese in cui col succedersi dei governi non c'è stato alcun aiuto a chi aveva bisogno di comprare una casa o di stare in un affitto agevolato. Ecco, questa no, perché lo dico senza demagogia, ma è chiaro che insomma perdere il 10% di valore di una casa che vale 1,5 milioni di euro perché è una zona di prestigio, uno dice per carità, mi dispiace per te, però se hai una casa da 1,5 milioni probabilmente hai avuto i soldi per comprarla, ma perdere il 10% di una casa che vale 300.000 euro o 250.000 euro in una zona semiperiferica di una famiglia in difficoltà probabilmente vuol dire perdere 30.000 euro di valore, e lì sono volatili per diabetici, Breglia, nel senso che no, è più pesante sul conto economico di una famiglia, no? Perché anche tutte le anomalie dell'IMU, per cui le case nuove hanno un IMU che è parametrato al valore di mercato, le case vecchie, quelle storiche, hanno un IMU che è parametrato a valori storici, quindi insomma è un'ulteriore conferma che bisogna intervenire e ragionare seriamente, ma anche diciamo così in modo equo, sia per aiutare il mercato della casa che per fare una stazione che sia più equa e no, che non aumenti le differenze tra i due mercati. Guardi, leggo anche per alcuni sms di contestazione a quello che lei ha detto, le banche, scrive un bancario, io firmo almeno 5 nuovi fidi a settimana, ci dica dove lavora, che veniamo tutti quanti lì. E poi un altro che è titolare di una filiale del Monte dei Paschi dice che le mutui e le famiglie vengono ancora erogati all'80% del valore, benissimo. Altri invece scrivono che hanno, nonostante l'alto reddito e un'assunzione a tempo indeterminato, non gli hanno dato il mutuo nemmeno con le garanzie, doveva avere almeno il 30% di liquidità. Vabbè, Breglia, grazie al presidente di Scenari Immobiliari, buon lavoro. Traffico, e poi respiriamo per dire con gli Stati Uniti, dove c'è uno scandalo che pone qualche ombra sul rapporto tra informazione finanziaria e grandi banche. Questa volta, una volta tanto, le vittime sembrerebbero essere le grandi banche d'affari americane. 349-238-6666 per i vostri sms e la pagina di Focus Economia su Facebook. Ultima parte di Focus Economia, una notizia appena battuta dall'agenzia Bloomberg, di cui adesso ci occupiamo per altri motivi. L'agenzia di rating Fitch ha aumentato il voto alla Grecia, da tripla C a B-. La prima buona notizia per la Grecia da un bel po'. A proposito di Bloomberg, che vuol dire un colosso con 315.000 clienti, un giro d'affari di 8 miliardi di dollari, come li fa i soldi la Bloomberg? Affitta, non vende, affitta i terminali che servono per fare di tutto, avere database, fare operazioni finanziarie, verificare dati soprattutto, e anche comunicare tra di loro come se fosse un intramail, alle grandi banche d'affari, ma anche ai giornali, a tutte le istituzioni in 192 paesi del mondo. 8 miliardi appunto di dollari, non c'è mai stato nessun bilancio però accessibile al pubblico, e la capogruppo è domiciliata nel Delaware, dove i segreti fiscali godono di maggiore protezione, una specie di Svizzera dentro gli Stati Uniti. Che è successo? È successo che la banca d'affari americana Goldman Sachs ha denunciato il fatto che alcuni giornalisti di Bloomberg attingevano informazioni riservate della banca per scrivere articoli. Il punto è come arrivavano ad avere queste informazioni riservate. Mario Platero, buonasera. Buonasera Sebastiano. Mario, ma anche tu eri tra i giornalisti che avevano accesso ai computer della Goldman Sachs? Beh, devo dire, ho cercato di tutto, di far di tutto, caro Sebastiano, perché il nostro mestiere è sempre quello di essere così sull'ultima linea del fronte, però... E non hanno voluto darci questo codice speciale. Ma invece, giornalista della Bloomberg, come fa? Perché la cosa è pazzesca, è che questo scandalo nasce perché un giornalista di Bloomberg si rende conto che un dirigente di Goldman Sachs, che un partner di Goldman Sachs, potrebbe essere stato licenziato, perché si accorge che questo manager di Goldman Sachs è da un po' che non accede al suo computer. Ora, com'è che fai a sapere che questo non accede con la sua password e il suo login al suo computer, a meno che tu non c'entri dentro? Allora, ti dico com'era la struttura. Bloomberg ha due grosse divisioni: la divisione news, quindi le notizie, l'informazione, e la divisione dati, tutto quel complesso di informazioni finanziarie, statistiche, analitiche, di proiezione e così via, che servono ai banchieri, ai traders, a chiunque opera in finanza, per fare il loro lavoro, perché sono super super super specializzati, entrano nel minimo dettaglio, e dunque questi operatori banchieri finanzieri hanno bisogno di avere le macchine Bloomberg dove trovano le informazioni. Cosa è successo? Che per avere accesso a questo tipo di informazione tu devi avere un codice. D'altra parte ci sono i giornalisti che fanno il loro lavoro. Allora, l'azienda Bloomberg ha deciso di, ma questo già tempo fa, infatti una delle polemiche è quanto sapeva il sindaco Bloomberg, e si dice che sia stato lui stesso ad autorizzarlo, forse già 15-20 anni fa, di dare questi codici di accesso non per tutto, ma per seguire che cosa, quali erano i movimenti dei banchieri, finanzieri, operatori e così via, lungo il percorso, il tracciato di informazione statistica e analitica. Di modo che se il giornalista si accorge che un certo banchiere ha preso un sacco di informazioni su una certa azienda che non è la sua, magari sospetta che ci sia una qualche attività finanziaria che lui vuole organizzare, sì, allora, magari c'è un'offerta di acquisizione ostile, esatto. E quindi cominciano a indagare, e così hanno fatto lo scoop, per esempio, scoop che oggi sappiamo essere un po' disonesto, sulla balena bianca, la famosa balena bianca, lo scandalo della balena bianca di JP Morgan Chase a Londra, che poi comportò una perdita per 6 miliardi di dollari, lo hanno scoperto in questo modo. Allora, devo fare un disclaimer, visto che parliamo in inglese. Io a Bloomberg ci ho lavorato per 3 anni, allora, quel terminal lì è un terminal, che cosa è successo? Uno lo affitta, lo prende a noleggio perché ha, come dicevi tu, non so, se io voglio sapere come va il prezzo della soia e qual è il più grande produttore della soia, che ne so, in Vietnam, ho tutte le informazioni, digito dei ticker, dei codici, soia così, e vado a vedere queste cose. Ora, che cosa succedeva però? Che se io controllo, se il giornalista di Bloomberg può controllare quello che faccio io, è chiaro che va a vedere di cosa mi sto occupando, per dire in soldoni, Mario, no? Per cui vede che io sto ricercando una marea di informazioni sulla società X e può presumere che io abbia intenzione di fare un'offerta, stia lavorando come advisor per quella società, cioè, e quindi praticamente il mio computer viene, quello che faccio io sul mio terminale Bloomberg viene letto dal giornalista di Bloomberg, è come se glielo facessi in faccia, no, praticamente, per cui è chiaro. Esatto, cioè, in teoria tu sei tu come utente devi essere un utente passivo di questa cosa. Esatto. Mentre invece il giornalista poteva spiare in modo attivo che cosa il cliente faceva. Come avere un giornalista dietro le spalle mentre un operatore, un manager di finanza sta lavorando e fa le ricerche. Voi immaginate che cosa capita, perché a quel punto puoi ricostruire tutte le operazioni di cui si è interessato quel manager. Ecco, però Sebastiano, ma tu potevi farlo quando eri da Bloomberg? No, non contavamo nulla. Non ti avevano dato il codice speciale. Non contavamo nulla, la televisione italiana contava pochissimo per allora. Devo dire che non è che il paese nel frattempo abbia guadagnato queste postazioni a livello mondiale. Comunque, no, ma la cosa interessante è che adesso tutte le banche centrali vogliono capire, perché questi terminali li usano anche le banche centrali. Allora voi capite che se un altro dirigente della Bank of Japan, che oggi ha chiesto chiarimenti, ma anche della Banca Centrale Europea, della Banca Centrale Brasile, si mette a lavorare, a fare una cosa, e il giornalista vede dal suo computer quello che questo fa sul computer da Bloomberg, insomma, qui vengono violati non solo segreti nel mondo del privato, ma anche segreti delle banche centrali. Secondo me questo creerà un bel intoppo a Michael Bloomberg, anche per le sue ambizioni politiche. Mi sa che torneremo a parlarne. Ringrazio Mario Platero. Da Sebastiano. Grazie a voi. Barisoni, l'auguro di una buona serata a tutti voi. Noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi.